Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi ci occupiamo della Sicilia, naturale piattaforma logistica del Mediterraneo, penalizzata da condizioni infrastrutturali inadeguate, quindi parleremo del Gottardo con l'inaugurazione del tunnel ferroviario di base, la galleria più lunga al mondo, in programma dopodomani. Spazio poi alle nuove norme sulla pesatura dei container, con un focus su quello che accadrà nel porto di Genova, e spazio anche all'incontro al Ministero con i rappresentanti delle associazioni dell'autotrasporto. Partiamo proprio da qui. Inizialmente fissata per questo pomeriggio la convocazione da parte del capo di gabinetto del Ministero dei Trasporti, Mauro Bonaretti, è slittata a dopodomani. Sul tappeto questioni cruciali per il comparto, legate sostanzialmente agli interventi di sostegno previsti dalla legge di stabilità, ma dei quali mancano ancora i decreti attuativi. Su questo punto, nelle scorse settimane, UNATRAS, l'Unione Nazionale delle Associazioni dell'Autotrasporto Merci, ha proclamato il fermo con modalità ancora da definire. In vista dell'incontro abbiamo sentito Massimo Bagnoli, presidente di FIAP. Intanto siamo indispettiti per il rinvio che è arrivato come sempre all'ultimo momento, come se le associazioni attendessero queste cose senza fare nulla. Sul tavolo cosa c'è? C'è semplicemente il rispetto di quel verbale d'accordo che le associazioni tutte hanno firmato con il governo il 5 di novembre. Quindi si doveva parlare di accise, si doveva parlare di spacchettamento dei 250 milioni di euro che sono poi strutturali per il settore, si deve parlare della decontribuzione a carico di quelle imprese che per l'80% hanno conducenti che svolgono attività internazionale, si devono parlare di spese non documentate, degli importi che devono essere rilasciati, che sono quei 56 euro, che anche qui tutti gli anni è un balletto veramente vergognoso. L'anno scorso hanno trovato una quadra, alla fine, anche con l'intervento volenteroso del capo di gabinetto, volenteroso delle associazioni che hanno rinunciato. Abbiamo fatto i conti per quello che si doveva tenere e quello che si doveva dare, quindi quest'anno non immaginavamo di dover rifare il solito balletto. Anche perché comunque abbiamo un governo che non rende conta ed è sempre difficile. Noi dobbiamo fare affidarsi e non credo che vada bene. E ora in Sicilia. Dicevamo in apertura che alla particolare collocazione geografica al centro del flusso dei traffici nel Mediterraneo non corrisponde una rete di strade, porti e strutture in grado di garantire e sviluppare un sistema logistico efficiente. Una condizione particolarmente penalizzante per l'economia locale e in generale per l'efficienza del sistema logistico nazionale, in un quadro caratterizzato da sfide all'insegna di una competizione sempre più agguerrita. Di questo si è parlato sabato scorso a Gela nel corso del convegno organizzato da Assotir. Al nostro microfono il segretario generale di Assotir, Claudio Donati. L'obiettivo è quello di sollecitare, diciamo, le realtà imprenditoriali, sia soprattutto quelle istituzionali, per fare in modo che quella che è una potenzialità, cioè la collocazione geografica di una realtà come la Sicilia, si trasformi in fatti concreti, cioè in una capacità di attrazione di traffici, cosa che al momento non è così, insomma. Ci sono, diciamo, problemi infrastrutturali che riguardano sia l'assetto stradale ed autostradale, non di meno poi anche il sistema della portualità, i collegamenti con lo stesso continente italiano, diciamo, e quindi con l'Europa sono, come dire, arretrati. Si tratta di chiedere un cambio di passo per fare in modo di recuperare un gap che ci condanna eventualmente, diciamo, alla marginalità. Il mondo dell'autotrasporto come soggetto direttamente coinvolto nelle dinamiche di un territorio, nella sua economia, nelle sue sfide, nelle sue opportunità. Questo l'approccio proposto da Assotir. Ancora Claudio Donati. L'iniziativa ci colloca anche in una maniera leggermente diversa rispetto ad una visione tradizionale dell'autotrasporto, nel senso cioè che in questa occasione abbiamo parlato più che dei problemi degli autotrasportatori, che sono sempre molti e molto seri, e soprattutto al fatto che l'autotrasporto è oggettivamente interessato al ciclo economico produttivo della realtà territoriale in cui opera, e quindi da questo punto di vista non è indifferente se l'agricoltura siciliana, per dire, va avanti o arreda, non è indifferente se il polo energetico della Sicilia meridionale, come dire, viene riconvertito, si trasforma oppure rimane una realtà desertica. Diciamo, su queste questioni, da queste questioni dipendono anche le prospettive e il futuro delle nostre aziende. Diciamo, questo è l'approccio. Dalla Sicilia alle Alpi, il countdown è ormai agli sgoccioli. Tra meno di 48 ore, quindi mercoledì mattina, sarà inaugurata la galleria di base del Gottardo, il tunnel ferroviario più lungo al mondo. 57 chilometri di lunghezza ad una profondità che raggiunge i 2300 metri. Un capolavoro dell'ingegneristica realizzato in 17 anni, un'opera che una volta a regime, a dicembre, accorcerà le distanze tra l'Italia, il cuore e il nord dell'Europa, rivoluzionando le rotte continentali del transito di persone e soprattutto di merci. Una chance, ma anche un potenziale rischio per il nostro sistema logistico se in fretta non saprà rendersi efficiente e competitivo. In questo nuovo scenario pesa indubbiamente il ritardo nella realizzazione del terzo valico dei Giovi tra Genova e la pianura padana, che sarà pronto non prima del 2020. Su questo abbiamo sentito Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Gottardo apre e poi l'anno prossimo incomincerà a funzionare veramente, perciò anche in quel settore, asse svizzero che collega soprattutto tutto il territorio del Benelux, i porti nordici, la Germania ovest con l'Italia produttiva della Lombardia, anche lì c'è un bel passo che permetterà di esportare dall'Italia verso i paesi nordici. È anche un rischio per l'Italia, bisogna dire, perché i porti nordici si avvicinano di più alla pianura padana e c'è il rischio che i porti italiani diventino meno competitivi che i porti nordici. Bene la riforma fatta dal ministro Del Ria sulla portualità italiana, importante che adesso anche i porti italiani comunque facciano il loro dovere di diventare più competitivi, più efficienti, e anche in questo caso servono comunque ancora investimenti infrastrutturali per collegare meglio i porti nordici al sistema ferroviario italiano, che oggi è ancora mancante. E con l'apertura a pieno regime della galleria di base del Gottardo, prevista appunto a dicembre, quando saranno conclusi i viaggi di prova e gli ulteriori collaudi, sull'intera rete stradale elvetica scatterà un nuovo sistema per calcolare la tassa chilometrica a carico dei veicoli industriali. Sostanzialmente si tratterà di una rimodulazione delle tariffe sulla base delle classi ambientali dei mezzi. Sarà eliminato lo sconto aggiuntivo del 10% del quale oggi possono beneficiare i veicoli Euro 6 e saranno aboliti anche i contributi attualmente concessi a chi trasferisce le merci dalla gomma alla rotaia. La quota del trasporto ferroviario in Svizzera è in costante aumento. Ormai quasi il 70% delle merci transita sui binari. E a proposito di porti e del corridoio Reno-Alpi, sul quale si inserisce il tunnel del Gottardo, ora andiamo a Genova, dove l'applicazione delle nuove norme sulla pesatura dei container prima dell'imbarco inevitabilmente rallenterà le operazioni in banchina. Si tratta della Convenzione SOLAS sulla sicurezza marittima che entrerà in vigore il 1 luglio. E chiaramente le preoccupazioni riguardano tutti gli scali. A Genova certo è particolarmente sentita, visto che ogni giorno sono 4.000 mezzi pesanti impegnati nello smistamento dei container distribuiti tra il bacino di Pra Voltri e quello di San Pier d'Arena. L'autorità portuale ha varato un piano che, proprio per limitare i rallentamenti nelle operazioni, prevede anche l'individuazione di punti di pesatura esterni alle aree portuali, definiti di cornice. Al nostro microfono il dirigente dell'autorità portuale di Genova, Luciano Boselli. Come noto, la SOLAS riguarda il traffico di esportazione. Le operazioni di pesatura, i nostri operatori dicono che si possono attestare sulla base di quanto previsto, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal decreto dell'ammiraglio Melone, circa in 10 minuti. Questo per noi sarebbe un appesantimento molto significativo e importante del ciclo operativo del porto. Quindi sostanzialmente gli ambiti di intervento sono duplici. Da un lato cospicui investimenti che i nostri operatori stanno velocemente, diciamo, compiendo per attrezzare le loro aree, ma al contempo anche cercare di ricognire, questo è un lavoro che facciamo insieme ai nostri operatori, quelli che sono i nodi di pesatura esterni al porto, in modo da poter supportare l'impatto di questa nuova situazione. Ovviamente noi ci poniamo il problema di fare in modo che eventuali, diciamo, punti di pesatura esterni al porto siano collegati in maniera telematica pratica al porto in maniera da come dire, conseguire un assetto equilibrato di quella che è la situazione che si prospetta. Ecco, quindi direi ovviamente grande preoccupazione per l'impatto che subirà e un grosso sforzo per diciamo, adeguare la nostra organizzazione complessiva. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.